sento il cellulare squillare, saranno loro, e infatti ci azzecco. Dai, quasi quasi rinvio l'abbiocco. Giuseppe, Luigi, sono tempi grigi, ma la musica ci aiuta. Una cosa più bella l'avete mai avuta? Luigi e Giuseppe, ancora tante tappe avete davanti, sono pochi ancora i contanti, ci vorrà un lavoro, ma quello strumento è il vostro oro. Giuseppe, Luigi, il vostro calore mi fa scordare il male che nella vita c'è anche per me. Ed è per quello che a volte ne scappo, ma di pensarvi non smetto. È arrivato il momento di questo brano, che la musica non agisce mai invano.